persone che non sanno ridere, non sono serie. Noi siamo i figli dei figli venuti su dalle macerie, dalle canzoni con dentro denunce sociali allo Stato, con la rabbia di un popolo che non è rappresentato. Versi sconnessi su pezzi di carta pronta per il macero, diamanti grezzi che apprezzi col tempo col senno di poi. Io che pensavo che scrivere rima mi rendesse libero, oggi ho scoperto che fuori c'è il sole anche senza di noi. Il mondo va e non si ferma mai, per quelli come noi, cresciuti senza eroi. L'amore non ha lieto fine mai, per quelli come noi, con il cuore stand-by. Le persone felici sono spesso quelle più povere, certa musica segna nel tempo di un'intera decade. Non la migliori la terra soltanto con buoni propositi, serve il fegato, stomaco, cuore, cervello e muscoli. Siamo milioni e milioni e milioni di anime instabili, diamanti grezzi che apprezzi col tempo col senno di poi. Io che pensavo di aver superato traguardi impossibili, oggi ho scoperto che cala la notte anche senza di noi. Il mondo va e non si ferma mai, per quelli come noi, cresciuti.